Allora, voi avete avuto, come dire, notizie dalla ministra della difesa Elisabetta Trenta sul fatto che questa nave potrebbe andare alla Spezia? No, ancora l'abbiamo interpellata direttamente perché da una serie di fonti che noi abbiamo è molto probabile che quei cannoni semoventi della Nexter, che non è stato possibile caricare in Francia alle Havre, perché date le proteste che ci sono state in Francia e che sono appunto diretti all'Arabia Saudita, che vengono impiegati nel conflitto in Yemen, bene, quei cannoni semoventi è molto probabile che siano stati trasferiti alla Spezia. Perché? Perché la Spezia offre una serie di facilità logistiche molto grandi. Innanzitutto c'è una parte del porto che è dedicata appunto all'imbarco di materiali militari, perché la Spezia è una città dove c'è la Automelara e altre aziende che producono materiali militari. In secondo luogo esiste appunto una parte del porto che è strettamente militare e potrebbero essere quindi caricate anche lì. In terzo luogo c'è anche la possibilità che vengano caricate nell'arsenale militare, che anche questa è di competenza appunto militare, o addirittura portate al Muggiano, che è appena fuori la Spezia, dove c'è la parte di competenza che appartiene a Fincantieri e dove però lì vengono spesso caricati tutti i sistemi militari sulle navi che vengono prodotte in Italia, che poi sono per la Marina Militare Italiana o esportate all'estero, tipo torrette militari, tutte queste cose qui. Quindi, detto in parole semplici, la Spezia offre tutta una serie di possibilità logistiche molto che facilitano questo imbarco. Qui è tutto da capire se questi semoventi, ma è molto facile che siano già arrivati alla Spezia, e dico molto facile perché è molto probabile, perché nei giorni scorsi questa nave ha, diciamo così, ritardato molto l'arrivo a Genova, è andata molto lentamente, sembrava appunto che fosse in attesa di qualcosa, un po' forse era anche per il Mare Grosso, ma comunque se ne aveva una velocità di crociera molto bassa, che fa appunto pensare che nel frattempo questi semoventi siano stati trasferiti dalla Francia, dalle Havre appunto, non a Genova ma alla Spezia, e potrebbe anche essere che già in questo momento siano presenti, per esempio, o in qualche parte dell'arsenale militare, o anche per esempio presso la Automelara o altre aziende militari, ma molto probabile presso l'arsenale militare. Quindi questo non lo sappiamo, ma diciamo che qui ci sono tutta una serie di facilità logistiche e finora nessuno ha smentito questa voce o questa notizia della possibilità di appunto di un imbarco di questi semoventi francesi alla Spezia. Ecco, io faccio un passo indietro, Giorgio, perché insomma insieme a te o a Francesco Vignarca, insomma la Rete Italiana Disarmo, abbiamo, come dire, parlato più volte del fatto che l'Italia venda armamenti all'Arabia Saudita, cosa che sarebbe proibita perché li usa nella guerra in Yemen. Comunque è un tema, al di là che sia l'Italia a produrre queste armi o meno, che è molto centrale. C'è voluta anche la mobilitazione dei lavoratori del porto perché questa contraddizione, come dire, inchiodasse in modo anche concreto, no, le autorità italiane. Sì, è ovviamente molto importante, è fondamentale in questo caso, proprio perché tra l'altro si tratta in questo caso soprattutto di materiale militare prodotto all'estero, quindi in Francia, e non si capisce perché debba essere imbarcato in Italia, in base a quali accordi o a quali convenzioni che non esistono. Ma soprattutto c'è un punto fondamentale, e cioè se noi guardiamo o leggiamo i trattati e i trattati internazionali, cioè non c'è nessun esplicito divieto, attenzione, non c'è nessun esplicito divieto a esportare armamenti all'Arabia Saudita. Perché? Perché non esiste un embargo da parte delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o dell'OSCE che permetta, che dica che è vietato. Questo succede perché? Perché c'è tutta una serie di veti incrociati, per cui non è vietato, non c'è questo embargo. Ma attenzione, questo non vuol dire che non ci siano nella nostra legge italiana, nella posizione comune dell'Unione Europea e anche nel Trattato Internazionale sul Commercio di Armi, tutti gli elementi per sospendere l'esportazione di questi armamenti. Questo è il punto importante. Quindi è una decisione politica che spetta al governo italiano in base appunto a tutte le norme che sono previste nei trattati internazionali e nella nostra legge, decidere se intende sospendere l'invio di queste forniture militari o no. È una decisione politica. Le norme lo permetterebbero e questo è quello che noi chiediamo al governo, cioè che non ci si può appellare al fatto soltanto che siccome non esiste un divieto io posso esportare. No, non esiste un divieto, questo è vero, ma dall'altra parte tutte le norme che noi abbiamo permettono a te governo di sospenderlo. E così come lo hanno sospeso queste esportazioni militari, la Svezia, la Norvegia, i Paesi Bassi e anche la Germania, che ha di recente rinnovato appunto la sospensione per altri 6 mesi, noi chiediamo al governo italiano che faccia altrettanto, anche perché questo lo avevano annunciato e lo ha detto tra l'altro il Presidente del Consiglio Conte, quando nella conferenza stampa di fine anno ha detto esplicitamente che l'Italia è contraria alle forniture di armamenti all'Arabia Saudita che vengono impiegate nel conflitto in Yemen, si tratta soltanto di formalizzare questa posizione. Bene, siamo a maggio e non hanno formalizzato niente. Ecco, insomma, c'è sempre tempo per formalizzarla. Io Giorgio ti ringrazio per anche per questi chiarimenti e poi staremo a vedere se verrà confermato, certo, appunto il fatto che questa nave... Teniamo informati soprattutto su questa questione della Spezia, perché è molto importante e stiamo monitorando tutta la situazione.